viaggio con Easy Riders. Direi che essendo già le 21:10 è il caso di entrare subito, interrompendo un po' prima questa sigla che ha caratterizzato a lungo questo programma, Want to Take You Higher, ed è quello che cercheremo, o meglio cercherò di fare anche questa sera, il fatto di portarvi in alto, sempre più in alto, la voce di Mox in vostra compagnia fino alle 23, una delle ultime puntate di Easy Rider. Ieri è stata molto piacevole in compagnia di Bernardo Lanzetti, che ancora ringrazio e saluto. Domani ci sarà un'altra ospite che mi riempie di gioia e di orgoglio, visto che si tratta di una voce italiana abbastanza particolare, e quindi poi vi dirò anche chi è, vi farò anche sentire un pezzo, ma voglio iniziare subito, voglio partire con un brano che appartiene all'Inghilterra punk, anzi all'Inghilterra crossover, visto che nell'84 i Discharge ormai avevano preso una piega molto più metal e molto meno punk, però l'hanno fatto un po' prima degli altri. The More I See, The Less I Believe, recita il ritornello di questo strepitoso brano, dall'incedere, ripeto, abbastanza corposo, e tradotto in maniera un po' banale sarebbe più vedo e meno credo, un po' come succede quotidianamente nel nostro vissuto. Quindi The More I See, The Less I Believe, loro erano nell'84 i Discharge. We'll be right back. una scarica, ed è per l'appunto la traduzione del nome, Discharge, uno dei gruppi di punta di quello che è stato il rock rivoluzionario e anche più estremo dal punto di vista delle sonorità. Ricordiamo che si formano già dalla fine degli anni 70, esordiscono nel 1980 con un suono particolarmente granitico e violento e sancisce un po' la nascita del genere hardcore in Inghilterra, quindi ovviamente l'America aveva tutta già una sua scena in via di sviluppo, e in Inghilterra invece tra i primi a picchiare particolarmente duro c'erano i Discharge. Poi si ammorbidiscono notevolmente, infatti questo esempio di The More I See dimostra quanto ci sia stato spazio insomma per una voce più pulita, per una lentezza di esecuzione rispetto all'hardcore che aveva caratterizzato gli anni, le annate precedenti. Allora è il momento di comunicarvi i contatti, come al solito. Questo è il 335-100-7777, ancora per poco il numero di SMS al quale già mi state scrivendo, e poi ricordiamo le solite due mail, mox@rockfamily.it, che leggo in un secondo momento, e la mail mox@radiorockfm.com, che insomma spulcio durante la diretta di Easy Rider. Allora, questa è una serata speciale, una delle ultime puntate di Easy Rider, quindi io raccolgo un po' questo materiale che io per diversi anni, specie nell'ultimo anno, ne ho raggruppato parecchio, vi ho fatto ascoltare, e insomma cerco di rispolverare qualcosa e di riproporlo proprio per dare un senso, un po' di best of a questa gloriose annate di programmazione di grande musica, è il caso di dire, non perché l'abbia scelta io, ma proprio per la differenza che da queste frequenze abbiamo sempre voluto fare. Allora, i primi saluti vanno a Man on the Moon, che scrive soprattutto un grazie a Marco Garavelli, ovviamente si riferisce al finale, l'ultima puntata di Hard and Heavy che abbiamo avuto occasione di ascoltare proprio fino a qualche minuto fa, e ovviamente ringrazio anch'io Marco Garavelli per il suo servizio nei confronti di questa musica che ha reso per anni, insomma. Davide Di Pioltello, anche lui ringrazia, dice: ci tengo a dirvelo, voi di Rock FM siete davvero persone speciali, vi voglio bene e un abbraccio circolare. Ecco, questa è, ci vorrebbe il copyright, però te la cedo molto volentieri, caro amico Davide. Carlos invece mi manda un'invocazione, mi dice: per favore rallenta Mox, che sto correndo a casa a registrarti. Lo spazio nella chiavetta radio è finito e mi serve un computer. Va bene, allora cercherò di parlare molto rallentato. No, ovviamente no. Matteo da Forlì, partenza da botta con i Discharge. Gran puntata ieri con Lanzetti. Quanta roba nuova ho sentito ieri. Bene, anche per me è sempre, quando ho ospiti, soprattutto ospiti che non ho mai avuto, è sempre una scoperta di nuove cose. Un saluto all'amico Fanello, che mi chiede qualcosa relativamente a un gruppo che si chiama Noise Mama, e non li conosco. Comunque, insomma, fatti sentire tranquillamente, caro Fanello, siamo sempre qui. Eros dice: grazie per i Discharge del loro secondo periodo, e stavolta non mi sono sbagliato. Bravo Eros, non mi ricordo quando tu abbia commesso un errore. In ogni caso, l'importante è ascoltare sempre grande musica. E allora anche il prossimo pezzo ci fa rimanere in Inghilterra. Questo è un altro classico, uno dei dischi che ho più programmato nella mia esistenza radiofonica, il primo album di Alan Parsons Project, Tales of Mystery and Imagination, dedicato all'opera letteraria di Edgar Allan Poe, e il brano che ho scelto è The Tell Tale Heart, ossia il cuore rivelatore. Sempre grande, sempre un disco fondamentale, secondo me, per capire la storia della musica, ma soprattutto questo meraviglioso incrocio di stili artistici, ossia i suoni, l'arte, intesa come letteratura, è il caso di dire, e non ultima, la bellissima parte grafica, e si sa quanto negli anni 70 contasse in particolar modo anche l'immagine, cioè anche adesso conta l'immagine, per carità, anzi forse conta ancora di più, però in senso negativo, ma quanta creatività venisse sviluppata anche all'interno solo delle copertine dei dischi che maneggiavamo sempre volentieri. Io sono felice perché ho ricevuto una mail di un amico al quale sto già rispondendo, un amico da me menzionato all'interno di un libro curato da Filopat. Mi scrive alla mail mox@radiorockfm.com e all'ascolto dei Discharge ovviamente non poteva che in qualche modo sobbalzare, insomma emozionarsi, visto che era un uomo praticamente sponsorizzato da questo gruppo, aveva veramente ogni tipo di logo relativo a questa band addosso, quindi a partire dalla pelle con un tatuaggio, via via andando verso una t-shirt piuttosto che una camicia, un maglione, addirittura si era dipinto la copertina di un 45 famoso dei Discharge sull'automobile, sul cofano dell'automobile, e insomma la cosa faceva un gran bel effetto, io lo ricordo con grande piacere. Allora, ripartiamo con la musica, siamo molto inglesi oggi, è il terzo brano consecutivo, dopo ovviamente come ben sapete torniamo in Italia, perché l'Italia non manca mai con i suoi aspetti oscuri. A Easy Rider io vorrei far partire un pezzo al quale tengo molto, sempre relativo al best of di Easy Rider, si chiama Supernova, è del 1971, il secondo album dei Grey Shoes. Sentite che viaggio notturno, questa d'altronde è Easy Rider. my, where's my home? Living life, always a thought for for each other. So I can say goodbye to love, say goodbye to happiness I knew. T-shirt con il logo di Country Skyline e di Rock FM in regalo ai primi 100 che si prenoteranno alla serata di venerdì 23 maggio, Country Skyline Farewell Night. Una serata con i Turnover sul palco del Milwaukee 50s Diner e un DJ set di Maurizio Faulisi. Invia subito una mail di prenotazione a info@milwaukeediner.it o telefono allo 0362 583 073. Il locale si trova a Varedo, in provincia di Milano, sulla superstrada Milano Meda. Informazioni su www.milwaukeediner.it oppure www.myspace.com/Maurizio Faulisi. La mitica caramella che ci fa tornare bambini. Ti ricordi quante ne mangiavi da piccolo? Anche oggi sono la tua caramella preferita? Certo, con una varietà tale di gusti, non può che farti nascere un sorriso. Una caramella Zigulì. Ora le tue caramelle Zigulì le puoi trovare nelle pratiche confezioni Pocket, nei gusti frutta, liquirizia e cioccolato. Chiedile al tuo bar. Zigulì, la caramella che non si scorda mai. Rock FM Spot. Live presenta Rose Tattoo in concerto. The Hard Rocker Rose Tattoo direttamente dall'Australia per due warm-up show in attesa della loro esibizione al Gods of Metal 2008. Mercoledì 25 giugno, Milano, Alcatraz, via Valtellina 21. Giovedì 26 giugno, Roma, Alfeus, via del Commercio 36. Infoline 055 55 20 575. www.liveinitaly.com in collaborazione con Rock FM. State ascoltando Easy Rider. You stole una serata di classici, direi, e soprattutto di classici inglesi fino adesso, insomma, anche lei ci ha tenuto in compagnia, sto parlando di Kate Bush, che abbiamo ritrovato con questo suo singolo datato 1978 dal suo secondo album Lion Heart, Cuore di Leone, e questa era Hammer Horror, veramente un classico anche di Easy Rider, che ha apprezzato anche la collega Claudia, la cosa mi fa particolarmente piacere, benissimo. Allora, io riprendo in mano al volo i vostri messaggi, anche perché alcuni prevedono del servizio nei vostri confronti, come quello dell'amico Wolfman milanese. Dice: come hai detto che si chiama questa band inglese? Si riferisce ai Gracious, scritto Gracious, ed era il loro secondo album, This Is Gracious, del 1971. Hanno fatto un paio di album, uno nel 70 e uno nel 71, di forte estrazione King Crimsoniana, ovviamente, ma non solo. Infatti abbiamo sentito che quel frammento di Suite che vi ho presentato, sia Supernova, era insomma variegato, con l'ultima parte addirittura molto cantautorale, ma in stile americano, quindi si disquisiva con il Faulisi, che è già nei nostri studi, sul fatto di quanto potesse essere più o meno country quel frammento di Suite. Va bene, quindi ricordati bene, Gracious, detto in italiano, Gracious ovviamente in inglese. Enrico da Livorno dice la sua, fa una considerazione abbastanza amara come al solito, dice: contributi statali per giornali di partito e chiude Rock FM. Mox, sei più grande, grazie mille, sono ogni tanto mi autocelebro con i vostri messaggi, e effettivamente quello che tu dici è abbastanza amaro, ma è una realtà, insomma. Che voce Kate Bush, questo è l'altro commento. Chi abbiamo? Abbiamo un messaggio abbastanza lungo, un messaggio lungo di un amico che si firma P e dice: mi fai riavvicinare anche al duro con il calore e la competenza, Discharge, Tales of Mystery Imagination, magico, erano circa 27 anni che non ascoltavo, magico, ne ho 41, Alan Parsons, amore dopo essere stato sverginato da Darkside. Ovviamente Darkside è quell'opera Pink Floydiana che appunto nelle mani di Alan Parsons ha avuto il riscontro che doveva avere, giustamente. E poi Alan Psychedelic Breakfast, io se fossi Dio sparata a bomba nella mia via con la radio a palla da modernariato. Grazie di tutto, moxa incandescente e profumata. E insomma, in quel posto, a chi non capisce, ruggine. Va bene, grazie del tuo messaggio che condivido, anche se può suonare un po' ermetico per chi si sintonizza così un po' al volo. Insomma, ci sono un bel po' di riferimenti a quello che è il carattere di questa trasmissione, che in qualche modo mi rappresenta, quindi grazie mille. Poi un'altra richiesta di delucidazioni arriva da Lara, che manda anche un bacio circolare. Dice: oggi in apertura Max ha passato un pezzo di un gruppo del quale ho capito solo la parte finale, che era tipo Anakin Joe. Ok, sapresti recuperare il nome del gruppo da questo piccolo indizio? Sicura delle tue capacità? Allora, cara Lara, io oggi non ero all'ascolto di Max per motivi lavorativi, né so usare il computer in modo da andare a recuperare il titolo esatto della canzone che cerchi, però da quello che scrivi ti posso dire che si parlava di Ugly Kid Joe, esattamente, mi viene in aiuto anche Claudia, ma l'avrei detto anch'io, perché da quello che scrivi, quindi Ugly è scritto Ugly come brutto, Kid come bambino e Joe come nome di persona, quindi vuol dire il piccolo brutto bambino Joe, insomma piccolo anche no, però va bene, quindi Ugly Kid Joe, ricordati questo nome. Poi Frinz, consueto ascoltatore anche lui dalla bella Emilia, dice: mi piace questa storia delle primizie di Easy Rider, e per nostra fortuna ne facciamo delle gran scorpacciate tutti i giorni, grande. Va bene, allora io passerei da una donna all'altra, visto che domani ce l'avrò ospite, dopo aver ascoltato Kate Bush, che è sicuramente una maestra, però insomma c'è un personaggio italiano che ha qualche anno di più di Kate Bush e che domani mi onorerà della sua presenza, insomma sono curioso di vedere cosa uscirà e ci faremo una chiacchierata insieme. Sto parlando di Nada, che ha appena pubblicato un album live, che è una sorta di best of live. Lei è diventata, per chi non lo sapesse, comunque un personaggio molto rock da quando collabora, specie con personaggi come Zamboni dei CCCP prima e CSI dopo. con Cristina Donà, con la quale aveva duettato a Sanremo. Insomma, è un personaggio sicuramente curioso da interrogare. E allora vi faccio sentire il singolo del nuovo live di Nada, anche se è un pezzo ovviamente da studio, si intitola Stretta e ricorda sicuramente un gruppo di Los Angeles, ve lo lascio indovinare. Passo, guardo il muro davanti e mi prendo il tempo, tutto il tempo che mi serve per saltare dall'altra parte, e faccio un salto. Era il nuovo singolo di Nada dall'album appena pubblicato Live alla Stazione della Birra. Questo è un mitico locale nei pressi di Roma nel quale Nada ha registrato con la sua band un ottimo concerto, ripreso e pubblicato ovviamente e distribuito regolarmente in tutti i negozi. Quindi abbiamo ascoltato questo inedito nell'attesa di parlare direttamente con lei e fare anche un escursus su quella che è la storia della musica italiana, ma non solo, perché so che insomma nei suoi gusti rientrano svariati personaggi della storia del rock che a Easy Rider sono di casa, e quindi ci diletteremo a chiacchierarne insieme. Nada Malanima, ospite domani Easy Rider. 335-100-7777 è il solito numero al quale continuate a raggiungermi. Allora partiamo dal ormai anche lui consueto Katiwick, che fa una, anche lui una bella analisi e dice: ieri hai aperto con l'effetto punk dei Suicide e poi hai chiuso con i Weather Report. Se stasera hai aperto con l'hardcore dei Discharge, non è che potresti chiudere con Pat Metheny? Buona idea, devo dire che è un'ottima idea. poi dice ok, conosco la regola, niente richieste, ma a volte ci si prova. Ripeto, colgo volentieri la tua, non è una provocazione, è una regola di Easy Rider questa qua, quella di essere particolarmente sinusoidali nell'andamento dei suoni e quindi non avere regole, anche perché infrangere la regola per noi è la norma, ecco. Un amico, dottor Buio, che veglia su di me, dice: smetti di passare questa musica, se no quando chiudete soffrirò da fare schifo. Ma non è un caso isolato, caro dottor Buio, il tuo, quindi rassegniamoci. Direi proprio i Doors, scrive qualcuno che ne sa, ovviamente c'è un palese riferimento ai Doors, ma ce ne parlerà lei direttamente. Marco invece dice: ma dopo i Grey Shoes, chi hai passato? Prima di Kate Bush, scusate. Caro Marco, in realtà erano ancora i Grey Shoes, era un intero lato, ovviamente non ascoltato per intero, erano una metà lato, uno stesso brano, essendo una suite era composta da vari momenti e quindi sembrava eterogenea, ma in realtà era sempre lo stesso pezzo, Supernova. Poi chi abbiamo? Doors of Perception, nessuno uscirà vivo di qui. Di alla Claudia, che anche a me esce Betty, va bene, riferisco alla collega Claudia che è di là in ascolto. Poi un altro anonimo dice: grazie, sei incommensurabile, come faremo senza voi tutti, cara amica Lara? Non lo so neanche come faremo noi senza di voi, per cui non pormi domande alle quali non saprei rispondere, ma so rispondere con la musica. Il prossimo pezzo ci porta nell'America, nel 1979, io credo a New York, visto che il loro primo album fu prodotto da Gene Simmons dei Kiss, questo è il loro secondo album, si intitolava semplicemente Van Halen 2. Crash and burn, and it was the way the beauty was. She never gave love. Crash and I was not reached. l'immensa chitarra di Eddie Van Halen nel 1979, Light Up the Sky, era il brano che apriva il lato 2 di questo Van Halen Second, quindi un disco non epocale come il primo, ma sicuramente un degno follow up, come si dice usando un termine tecnico del nostro linguaggio settoriale. Allora, Light Up the Sky, ovviamente inconfondibili Van Halen. Prima di riprendere in mano gli SMS, rispondo volentieri a un amico, Giovanni, che scrive a mox@radiorockfm.com ponendomi una questione. Già l'oggetto della sua mail recita Birdland, quindi il titolo del brano dei Weather Report con il quale abbiamo chiuso la trasmissione di ieri, e parla dell'attacco della canzone, quindi l'inizio con questo celeberrimo riff a cui poi subentra il basso di Pastorius che esegue una melodia utilizzando la tecnica degli armonici artificiali, mentre il riff continua a risuonare. Sto leggendo ovviamente parte della sua mail. Lui dice: non ho mai capito se l'inizio del brano è suonato con due bassisti, se si tratta di una sovraincisione, o se invece le note di apertura sono eseguite da un altro strumento il cui suono ricorda quello di un basso. Tu o qualche altro può togliermi questo dubbio? Guarda, io non ho neanche mai pensato che fosse un basso quello iniziale. Io personalmente, senza dover consultare nessuno, ma come sento l'inizio di Birdland, penso francamente a Joe Zawinul e al suo sintetizzatore. Quello è ovviamente una tastiera, e poi subentra il basso e via via tutti gli strumenti. Quindi non pensare che sia un basso. È chiaro che sono le note basse di una tastiera e quindi possono richiamare quella timbrica, ma in realtà non è un basso. Diciamo che è un giro di basso però eseguito per tastiera, e la cosa si sente, direi. Va bene, grazie. Mi ringraziano per la nuova Nada invece al 335 100 7777. Sicuramente domani ascolteremo dei brani anche di grande qualità, sono sicuro di questo. E poi mi chiedono: chi è passato dopo i Discharge prima dei Gracious? Allora, vediamo di ricordare, perché questa sera, anzi devo ammettere una cosa, ultimamente ad Easy Rider mi piace contare totalmente sulle mie facoltà di improvvisatore, e quindi arrivo praticamente senza una scaletta, porto solo dei dischi e li guardo e parte la selezione in maniera così automatica. Quindi dovrei andare a rispulciare. Ah, ecco cosa ho messo. Ho messo Alan Parsons Project con The Telltale Heart, il cuore rivelatore, dal primo album, Tales of Mystery and Imagination. Quello era l'esatta sequenza, quindi il secondo brano di oggi era di Alan Parsons Project. Mentre il prossimo è già pronto sul giradischi, io vi faccio un regalo, perché il brano in questione è una sorta di inedito dei Pink Floyd, un brano scritto nel 68, quindi 40 anni fa, da quei due amiconi di Roger Waters e David Gilmour. Il brano uscì su un 45 giri che io ho la fortuna di possedere, si intitola Point Me at the Sky, puntami verso il cielo. E è un brano importante perché, ripeto, non credo che esista una versione in CD, sicuramente sì da qualche parte, ma non facile da reperire. Allora io vi propongo questo 45 giri che già ovviamente ad Easy Rider un bel po' di tempo fa vi ho fatto ascoltare, e allora questa sera ci ribecchiamo i più grandi Pink Floyd, 1968, Point Me at the Sky. This is Henry McLean, and I've finished my beautiful flying machine, and I'm ringing to say that I'm leaving, and maybe you'd like to fly with me and hide with me, baby. Isn't it strange how little we change? Isn't it sad we're insane? Been playing for thousands and thousands of times. 2005. I hope you're exceedingly thin. For if you are stout, you will have to breathe out while the people around you breathe in, breathe in. Mentre mi stavo autoelogiando sulla mia capacità di stare al mixer qua con il collega Edo che passa da queste parti anche a quest'ora, buonasera che, Edo. Buonasera, che ovviamente tu ti stavi autoelogiando, io stavo facendo il contrario, ovviamente ti stavo mazzolando. Veramente stavi ridendo come un pazzo, giustamente. Vabbè, che fai da queste parti? Cosa vuoi che faccia? Stai provando per la Rock FM. Traffico, lavoro, monto, smonto, eccetera, insomma, preparo la festa. Esatto, esatto. Le feste, perché sì, le feste ormai qua si stanno moltiplicando. Ma tu parteciperai alla Nottedo? Come? Ma non è martedì prossimo? Esatto. Ma chi te lo fa fare di martedì, perdonami? Perché non ci sono più buchi liberi. Hai ragione, infatti anch'io l'avrei voluta fare, ma purtroppo... Puoi farla con noi e farti qualche swingata con le tue spazzole alla grande. Ah, proprio se suona live? Certo, sarà una serata jam session, oltre a mettere i miei dischi, insomma, che tu potrai anche non ascoltare. Esatto, quando metti i dischi mi tappo le orecchie, mentre quando suoniamo allora subentro con le mie spazzole. Esatto, tipo okay. Spegnere il cellulare, Mox, quando sei in onda? Aspetta, però sentite che suonerina, spettacolo. Mia, ma sembravano i Wham con è un momento chill out. Esatto, bene. Quindi è sempre chill out, sempre tranquillo, ci rilassiamo. Va bene, allora. Buona serata e buon viaggio con Easy Rider. Avete sgamato che è lui, la voce del jingle è lui. Una delle voci importanti è quella dei Goblin. Sì, infatti. Sempre quando si parla di robe dell'orrore, eh? Esatto, allora chiamo te. No, vabbè, c'è anche la Ria. Anzi, guarda, adesso c'è un pezzo che voglio dedicare a Claudia che sono certo che lei possa apprezzare. Attenzione, hai detto ecco. Claudia. Eccola, ma siamo circondati questa sera. Buonasera. Buonasera. Bentornata. Come sei bello. Come sempre. Come sei bella tu, Mox, porca miseria. Ah, mi ero, scusate. Stavo pensando come sei bella tu. Una cosa. Mi mancherai anche tu. Sì, riusciamo ad arrivare a tanto, cazzo. Sì, fantastico. Perché tu sei un Mox. L'ultimo dei Mox, diceva. Tu sei bello così, lo sai. Vabbè, mi sento molto circondato d'affetto questa sera. Perfetto, un momento nel quale sta succedendo cose pazzesche. Mox che apprezza Appetite for Destruction, la Claudia che dice Mox mi mancherai. Cos'è veramente pazzesco. Brian May che ci risponde, troppe cose. A saperlo facevamo chiudere, una volta al mese facevamo chiudere succedendo delle robe fantastiche. Ci risparmiavamo l'esaurimento nervoso. Io ho perso una decina d'anni. Io ho perso il lavoro, vedi te. Adesso bello, eh? Vabbè, Mox, tranquillo, potrai perdere un sacco di altri lavori adesso. Sì, li collezioniamo ormai i lavori. Allora, Claudia, se sei d'accordo, io ho scelto, anche perché è un po' donna, Enigma of the Absolute. L'enigma dell'assoluto. Io sono donna dentro. Soprattutto come ti vesti quando vieni a suonare. Bene, non riveliamo questi retroscena. Da donna quando suoni? E perché, come ti ho già risposto una volta in diretta con te, perché anche David Bowie si vestiva da donna. Sì, ma lui beccava. Sì, ma lui era bravo. Ma io non. Lui è bravo. Scusami. C'è nessun altro che vuole venire qua a dire insulti in diretta? Poi non vuole chiamare tu, qualcuno. Tu che ti glemmizzi non è da te. Non ha senso. Non basta ha che senso. Non si glemmizzi nel look. Tra un po' lo vedremo cotonato. Comunque, cioè, credete che loro non fanno uso di acidi, però insomma, voi che mi avete visto dal vivo, voi che mi avete visto dal vivo, immaginate quando io possa vestirmi da donna, esattamente come mi avete visto voi, secondo loro sono vestito da donna. No, comunque, ma no, tu complimenti. Tu ti vesti da donna, nel senso che usi gli abiti da donna. Infatti, allora giudicate voi la prossima volta che mi vedete, cioè, dai, gli abiti da donna volta. Secondo Claudia. Camicia di chi era? Dai, dillo l'ultima volta. No, ma giudicate pure, fate pure. O comunque la cintura di chi era? Meglio con la camicia e la cintura della sua fidanzata che con la maglietta del mago Ronzo come ad onoratico, scusa. No, ma quella l'ho preparata per il gala finale. Ah, guarda, non vediamo l'ora. E come uso dire sempre, ne ho fate 5 perché in band siamo in 5, quindi ognuno avrà la sua maglia del mago. Certo, e noi la indosseremo. Beh, non vedono l'ora. Comunque, ragazzi, lo sapete, mi state costringendo a cambiare pezzo, perché io non posso, cioè non si può mettere i Dead Can Dance dopo una riga di minchiate come abbiamo detto adesso, scusate. Una riga di minchiate mi piace, cioè, ma Mox. Cioè, si perde veramente di senso, quindi dobbiamo, vammi a prendere un disco di Frank Zappa che magari è più in linea. Allora, rimettiamo. Vabbè, allora, attimo di chill out, allontanatevi, respiro, anzi, leggiamo un po' di messaggi. No, avevi annunciato il pezzo, manda il pezzo, dai. Vabbè, allora, scusa, io chiedo scusa umilmente, perché fa caldo qua dentro, chiedo umilmente scusa ai Dead Can Dance, purtroppo, non è colpa nostra, non è colpa di nessuno, io ho il più profondo rispetto, perché oltre ad avere una reputazione da difendere. Certo, e quindi adesso ci ascoltiamo dall'album Spleen and Ideal, Enigma of the Absolute, loro sono ovviamente i Dead Can Dance. Sì. Dead Can Dance, con il dovuto rispetto, vi chiedo ancora perdono per il quadretto quasi imbarazzante, nel senso, prima di aver ascoltato un pezzo così, insomma, in compagnia di questi colleghi che ho la fortuna di ritrovare. Ti è piaciuto il brano? Io li adoro, i Dead Can Dance. Meno male, va. Anzi, grazie. Sei l'unico che li passa. Lo so, grazie. Mi sporta il coil? La prossima volta, domani dopo Nada mettiamo anche queste cose. Va bene, allora io invece passerei a un prossimo brano che ci riporta in Italia, visto che insomma stiamo così spensieratamente alternando la programmazione tra moltissima Inghilterra questa sera, ovviamente adesso un lancio australiano insieme a Dead Can Dance e poi un po' di brani italiani. Questo è un brano che arriva da Roma, dal lontano 1972, uno dei dischi più belli anche a partire dalla copertina della scena progressive italiana degli anni 70, quella vecchia locanda. Anche il nome è suggestivo e ci evoca immagini particolarmente devo dire storico, insomma, soprattutto ci lascia questo immaginario fortemente progressive, ecco, è il caso di dirlo. Prima di farvi ascoltare il brano, però, io vorrei cogliere al volo occasione per dire una cosa legata ai vari messaggi che ricevo come sollecitazione alla mia partecipazione, diciamo, all'interno del mondo tecnologico, quindi la possibilità che abbiamo di interagire grazie al sito rockfamily.it, piuttosto che a un neonato MySpace che mi riguarda, che è nato un po' così per gioco. Allora io vorrei semplicemente chiarire una posizione. Sono molto, per carità, sono molto felice di ricevere messaggi e contatti da parte di tutti, però sussiste un problema di tempo innanzitutto, oltre che tecnico, che non mi consente poi di rispondere agevolmente a tutte le richieste, insomma, di interagire in maniera spensierata, come spesso capita ovviamente ai miei colleghi. Cioè Edo per esempio gestisce vari blog e lo fa come abitudine quotidiana. Purtroppo nel mio caso bisogna un po' accontentarsi innanzitutto dell'onda radiofonica, e poi quando ci si incontra, per carità, per me è sempre un immenso piacere scambiare chiacchiere con chiunque, per cui sappiate che chiunque mi scrive la cosa mi rende assolutamente felice, ma che non si offenda mai nel momento in cui non ottiene celeri risposte, perché ne sono totalmente impossibilitato. Quindi ci tenevo a specificare questa cosa proprio per non apparire quello che non sono, insomma, una persona che snobba, perché non è assolutamente così, ma sappiate che insomma mi fa molto piacere essere insomma all'interno dei vostri pensieri anche mediante questi mezzi sui quali appunto non ho particolare pratica e non ho molta disponibilità dal punto di vista logistico. Allora, dicevamo, quella vecchia locanda, primo album 1972, io vi ripropongo questa, Un villaggio, la città è quella di Roma. da Roma, quella vecchia locanda, un classico del miglior progressive italiano, ricordiamo, album d'esordio omonimo del 1972, insomma un disco che, ripeto, anche a partire proprio dal progetto grafico si fa apprezzare, se non addirittura amare, ovviamente dagli appassionati del genere, e non sfigurerebbe appeso magari incorniciato come quadro, perché proprio di quadro si tratta, si sta parlando ovviamente della copertina di questo ottimo album. Va bene, allora un po' di saluti, vi sto trascurando un po', insomma i colleghi adesso mi hanno giustamente abbandonato perché hanno il loro da fare e anch'io ho il mio da fare con voi ancora fino alle 11 di sera, poi arriverà il Faulisi come al solito, quindi saluto, insomma... Scusate, rido perché sto leggendo un messaggio di un amico che, visto che ho menzionato Zappa prima, dice: Mox, ma cosa si sono fumati Claudia e Edo? Dice il pezzo, suggerisco il pezzo di Zappa, ovviamente tengo una minchia tanta, quello è il brano più osé che si possa passare a livello radiofonico, e ovviamente ho avuto anche il coraggio di passarlo in orario diurno, quindi insomma un piccolo vanto, vabbè, non è detto che non torni quel pezzo prima o poi. Andrea da Terni, dalla città di Terni, sono felice che mi segua questo programma dall'Umbria, anche se in realtà poi fa la spola con Grosseto, e ci ha conosciuti da un paio di mesi per poi perderci subito, vedi che fortuna che abbiamo. Va bene, 45 anni suonati, 500 CD, penso che God Bluff dei Van der Graaf Generator sia il vero capolavoro, e mi chiedi un parere a riguardo. Allora, per quanto riguarda la discografia dei Van der Graaf, io potrei in realtà mi esprimo sempre in termini di capolavoro con H2E, I'm the Only One, piuttosto che Pawn Hearts, quindi il terzo e il quarto album. Però anche God, devo dire che una volta ho avuto l'occasione di parlarne con Peter Emmill e lui mi ha risposto, forse in maniera molto inglese, mi ha detto: guarda, per me uno vale l'altro, cioè sono tutti i dischi che ho fatto con i Van der Graaf sono belli, e quindi non riesco a dirti quello che preferisco, perché appunto io mi ero espresso sul terzo come il capolavoro. Poi, chi c'è? Rudy da Sesto, insomma, è contento di aver ascoltato i Dead Can Dance, molto bene. Poi Claudio, la musica che ci proponi è già sublime, è un sublime modo di comunicare. La mia paura è perdere il contatto dopo il temuto giorno, comunque grazie a te, comunque sappi che il contatto in qualche modo rimarrà vivo, a parte il sito rockfamily.it, insomma in qualche modo ognuno di noi ha la determinazione di proseguire in questo lavoro di comunicazione, e insomma chi la dura la vince, quindi prima o poi dovrebbe saltare fuori qualcosa, insomma crediamoci tutti insieme. Poi ciao da Mauro anche alla grande Claudia, questo è un amico fiorentino. Un altro amico invece genovese mi chiede Panna Fredda è un altro nome di band romana, visto che abbiamo appena scomodato quella vecchia locanda. Il prossimo brano che ho preparato invece è una celebrazione dei maestri, ne parliamo praticamente tutte le sere, ma io non vi ho mai fatto ascoltare questo pezzo. È un brano molto bello ma anche molto sperimentale, quindi sarò costretto per ovvie ragioni a tagliarlo, ma la prima parte è quanto di più influente si possa ritrovare alla fine degli anni 60, ancora una volta in Inghilterra. Prima abbiamo ascoltato gli alunni Grey Shoes e adesso ascoltiamo i maestri, quindi King Crimson, In the Court of Crimson King è l'album, e questa è Moonchild, la voce sublime è quella di Greg Lake. Lonely moonchild, dreaming. tengo in sottofondo questo momento assolutamente mistico e so quanti di voi amino giustamente questo album che è la vera e propria pietra miliare della storia del rock, il primo dei King Crimson, un album che fece rivoluzione anche questo da tutti i punti di vista, non ultimo anche in questo caso quello di una copertina che segnò un debutto a livello di marketing, si può dire, ogni idea era messa veramente a segno e quindi una copertina molto impressionante, difficile da dimenticare per un disco che in sé rivoluzionava a sua volta la musica che aveva caratterizzato gli anni precedenti, quindi King Crimson sempre amati e sempre in rotazione ad Easy Rider, ma mai con questa Moonchild che questa notte ho voluto regalarvi e soprattutto condividere con voi. Allora io voglio anche salutare un amico che scrive a mox@radiorockfm.com, quindi usando la consueta mail legata ancora al nome della radio, ancora per poco. E ciao Mox! Per altre segnalazioni potete scrivere a magda@rockfamily.it. Anton Giulio, Anton Federico, andiamo! Vabbè, sono tornati i ragazzi a farmi il saluto finale. State andando? Siamo ragazzi di strada, come pensai. Perché chi vuole conoscere meglio Mox deve guardare il film di Verdone, Furio è uguale. Esatto, peccato che andate via, perché volevo andare avanti a fare la trasmissione con voi. Guarda, ma noi piuttosto ce ne andiamo in mezzo ad una strada sotto la pioggia, oh, che è bello avere degli amici. Buon viaggio. Buon viaggio con Easy Rider. Buonanotte, a domani allora. Un abbraccio circolare, Mox. Brava, brava, così mi piace. Hai studiato. Domani vestiti da uomo, eh? Sì, sì, domani da uomo, tranquilla, non da donna come tutti i giorni. Ma quando uno è arrabbiato con te ti deve rollare di cartoni circolari? Beh, è un'esperienza che mi manca, però possiamo parlarne. Vabbè, grazie per aver rovinato il pezzo dei King Crimson. Che ecco, ora è colpa nostra. Ciao. Va bene, salutiamo i colleghi che, come dite giustamente voi, ma cosa si sono fumati questa sera? Non lo so, lo chiederemo a loro. Non mi ricordo dove ero, anche perché, ah sì, abbiamo un pezzo pronto sul giradischi, un brano italiano, un brano del 1981 di artista friulano trapiantato in quel della città di Milano, si chiamava Fausto. Lo ritroviamo con questo album omonimo, ripeto, è il suo quarto album e il pezzo si intitola Ogni Fuoco. Credo, guarda, guarda, guarda. Ogni fuoco era il mitico Fausto, anche questo un artista che abbiamo trovato più volte, ma un brano inedito per quanto riguarda la programmazione di Easy Rider, esattamente come prima per i King Crimson, che spesso e volentieri ritroviamo, ma anche per Fausto, insomma, Ogni fuoco mi ricordo di non avervela mai programmata. È infatti un pezzo più danzereccio, molto molto wave. Caro Andre, ti rispondo, mi scrivi al 335-100-7777 se, visto che Arden Davy è finito, posso iniziare alle 20. No, in realtà non è così, perché Arden Davy, io credo che, non sono sicuro, ma forse domani ci sarà ancora. Comunque, vedremo, vedremo cosa riesco a fare. Poi, Alessandro da Firenze, un saluto anche a te. Un altro amico dice, Moonchild è davvero troppo lunga, ma questo disco è meraviglioso, non solo per la qualità dei pezzi, ma soprattutto per la raffinatezza dei suoni e della produzione. Mitico. Poi Veronica dice che sorpresa, pensa che ogni sera mi addormento ascoltando proprio Moonchild ed è piacevole ascoltarla mentre leggo Tiziano Terzani. Bene, ottima e colta citazione ad un altro elemento della nostra storia che ha avuto cose intelligenti da dire, almeno questo è il mio parere. Ripasserai Benvenuti tra i rifiuti, mi chiede Marco Sarca, perché no, direi di sì, un classico della produzione di Fausto, anzi il primo singolo, forse il secondo, comunque un brano che ha caratterizzato molto. Altri amici da salutare, chi c'è ancora? Ah, esatto, io forse prima con l'intervento dei miei colleghi non ho salutato Roby da Caravaggio, che era, faceva un commento appropriato su Point Me at the Sky, dicendo anche che probabilmente è stata pubblicata sul cofanetto Shine On nei primi anni 90, e qua confesserò che io non ne sono in possesso, almeno del cofanetto Shine On, e per cui non ricordo, forse sì, c'era un CD di brani diciamo meno noti, per cui probabilmente rientrava anche poi in Me at the Sky. Va bene, allora il prossimo brano, anche questo è già sul piatto, si entra un po' nella modernità con la band inglese, ancora per tornare in Inghilterra, un trio che voi tutti sapete quanto io apprezzi, e la cosa bella è che lo apprezzate molto anche voi. Sing for Absolution, bisogna cantare per l'assoluzione, eh sì, perché qui di peccati ne vengono commessi anche troppi, e allora c'è gente che probabilmente ha bisogno prima o poi nella sua vita di assoluzione, e allora lasciamo che siano i Muse per ora a parlarne con la loro grande musica. all'ultimo istante, ovviamente, il vinile sta girando ancora sul piatto. Io nel frattempo mi sto intrattenendo in chiacchiere con dei piacevoli ospiti che popolano la radio. Ultimamente la radio è molto molto popolata da persone, c'è un via vai di musicisti innanzitutto che vengono a trovarci e ci offrono le loro splendide performance live, come ben sapete Paulisi ce li ha quasi tutte le sere, a me è capitato già ieri sera, ma ne avrò ancora altri, ve lo posso garantire perché anch'io ho preso i contatti con i musicisti che hanno partecipato nel corso degli anni alla stesura e alla buona riuscita di questo programma, quindi sarà un piacere riospitarli. Detto questo, allora, il brano dei Muse, come ben sapevo, ha suscitato la vostra giusta reazione. Un bacio all'amica savonese Serena, dice grazie per questo bellissimo pezzo struggente dei Muse, ovviamente è un aggettivo che calza, belli momenti di intervento dei tuoi colleghi, traspare calore. Vorrei non arrivasse mai il 31 maggio e spero almeno di riuscire ad essere lì per salutarvi. Guarda, è sicuramente un piacere, un invito che informalmente rivolgiamo a voi, perché essere avvolti nel nostro abbraccio virtuale e anche circolare è sicuramente un momento di chiusura celebrativo, ma che ci darà moltissimo, darà una sorta di conforto reciproco quantomeno. Allora, Chiara dice allora, ci sono un po' di messaggi che mi lasciano un po' perplesso, ma li voglio leggere lo stesso. L'amica Chiara dice: prima della fine una puntata cinematografica la farai? Spero di sì. Poi li leggo tutti in fila. Un altro amico mi chiede se riuscirò a programmare gli Area prima della chiusura, e un altro amico ancora che è in fila in macchina, probabilmente si è sintonizzato tardi, dice: visto che siamo in tema di grande musica, se ti proponessi Time dei Pink Floyd. Ecco, io credo che questi amici siano dei nuovi ascoltatori di Rock FM, perché altrimenti non rivolgerebbero delle domande di questo tipo, che ci stanno sempre, per carità, visto che comunque si parla di nomi importanti, ma proprio perché si parla di nomi importanti, sappiate che tanto gli Area, quanto il cinema, quanto i Pink Floyd, soprattutto con Time, insomma, sono un po' una cosa nauseante all'interno di Easy Rider, per cui mi fa specie che qualcuno richieda una cosa del genere. Detto questo, ovviamente gli Area torneranno, così come torneranno i Pink Floyd, e così come molte puntate concept dedicate alle colonne sonore e al cinema sono state realizzate, ma torneranno, quindi in ogni caso i vostri spunti vengono sempre presi in considerazione in maniera spontanea. Renato da Genova dice: dopo Lanzetti di ieri intervisteresti Fausto, ormai Fausto Rossi ovviamente, con nome e cognome anagrafico, sarebbe molto interessante sentirlo. È fattibile? No, non è fattibile in questo poco tempo che mi rimane, perché non saprei come reperirlo, per quanto io abbia già avuto la fortuna e l'occasione di incontrarlo. Però è un po' sparito, un po' irreperibile ultimamente, e effettivamente sei stato bravo, perché con una certa attenzione uno dei pochi artisti italiani molto in voga su Easy Rider che non ho avuto occasione di intervistare in diretta radiofonica. Detto questo, io ho cercato di programmare al volo un brano che, a proposito di cinema, ci sta a pennello, perché è un brano della grande John Betts, e ovviamente la ballata di Sacco e Vanzetti, tratta dalla colonna sonora scritta dalle mani del maestro Morricone del film dedicato alla storia dei due anarchici italiani perseguiti negli Stati Uniti. E quindi John Betts, io spero di farla partire bene, perché non ho avuto il tempo di ascoltare a che punto sia il disco. Comunque, prima o poi arriverà. John Betts, la ballata di Sacco e Vanzetti. guitar that tears away the roots and says goodbye to friends and family. The fathers and the mothers weep, the children cannot comprehend. But when there is a promised land, the brave will go and others follow. I lift my lamp beside the golden door. Blessed are the persecuted, and blessed are the pure. Era il 1971 quando la voce di John Betts si prestava, incrociava l'arte di Ennio Morricone, ovviamente uno dei più grandi scrittori di musica del nostro tempo, ovviamente specializzato in ottime, in grandissime colonne sonore. La ballata di Sacco e Vanzetti dalla colonna sonora di questo grande film dedicato alla vita di questi due anarchici, insomma una vicenda storica ricordata anche attraverso la musica, perché questo è diventato poi un brano, fortunatamente in virtù della sua bellezza, da immaginario collettivo. Allora io vi lascerei con un ultimo brano e prima di salutarvi e di lasciarvi nelle mani del Faulisi, che come vi ripeto anche questa sera ha ospiti di rilievo che vi allieteranno con le loro note live qui direttamente negli studi di Rock FM. E allora vi faccio ascoltare questo brano ancora della storia del progressive italiano, De Lind, era parecchio che non li ritrovavamo. Indietro nel tempo era il brano, uno dei brani portanti del loro album d'esordio, anche qui del 72. Io non so da dove vengo e non so dove mai andrò. Uomo è il nome che mi han dato, è il lungo titolo di questo bel disco. De De Lind, Vito Paradiso era il leader di questa band e poi si cimentò in una breve carriera solista. Ma riascoltiamo questo Indietro nel tempo. allora si conclude qua con questa Indietro nel Tempo, si conclude la puntata odierna di Easy Rider. Ovviamente le mie scuse a Chiara, che specifica che le puntate sul cinema sono proprio le sue preferite, per quello che me ne chiedeva una. E invece l'amico Giora Genova dice: hai ragione, sono un nuovo ascoltatore. No, in realtà mi chiedi i Pink dicendo una cosa errata, cioè sono fuori posto. In realtà non posso metterli per una semplice ragione, che gli ho messo un quarto d'ora fa, per cui hai acceso la radio in ritardo. Era questo che mi faceva sorridere il fatto. Va bene, Country Skyline è alle porte, Maurizio è pronto con i suoi ospiti. Io vi rimando l'appuntamento a domani, puntuale alle 21. Ci sarà per buona parte del programma anche Nada, con la quale disquisiremo su un po' di argomenti rock e soprattutto ascolteremo le sue nuove, insomma, estratti dal suo nuovo album. Da parte di Mox è tutto, io vi lascio obbligatoriamente con il mio più caldo e avvolgente abbraccio circolare. Sai che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi, voglio dire proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a Scannabile o qualcosa. Hanno paura. Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate. Ma guarda, per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.